anche oggi vi tocca i fuori posto. I fuori posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Eccoci qua, bentornati ai Fuori Posto, Radio 24. E per i nostri radioascoltatori dico che Filippo è appena tornato da Chiasso, no? Da un contact bar. Com'è andata, Filippo? È stata una serata molto bella e, devo dire la verità, mi sono innamorato. Hai fatto il dottore, eh? Ho fatto il dottore con una ragazza che proveniva da Kiev e l'ho visitata fino in fondo e... Ma da lì è nato anche l'amore. Capisco Mauri ora. Sei un po' scurrile e un po' romantico. Non so se è più scurrile o più romantico. Io opto per la prima, però. Ma le donne piacciono così, gli uomini, un po' scurrili e un po' romantici, no? Ieri abbiamo spaccato un po' i nostri radioascoltatori, no? Cioè, c'erano i pro, i contro, no? Ai contact bar, bar dove, insomma, si può fare sesso a pagamento in modo molto agevole. Sì, basta, no? Pagare. Però, insomma, l'amore è un argomento che tira, no? E a proposito di amore, caro Umberto, devo dirti che la tua storia di amore fallito, andato male, sta appassionando i nostri ascoltatori. E ti devo dire la verità. Dici? Mi è arrivato un messaggio. Purtroppo appassiona gli ascoltatori, ma addolora me. Addolora te, però sta diventando una specie di saga, una sorta di telenovela. C'è qualcuno che si appassiona al tuo caso, come ad esempio Sara da Vicenza, che ha scritto una mail proprio per te. Ti vuole dare una mano, vuole darti un aiuto per risolvere il tuo dramma. Quindi parte il nostro momento fuori amore. E ci tocca pure oggi il dramma d'amore di Umberto Alezio. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the prize. Io come al solito mi commuovo. Perché sei sensibile. Ho fatto così. La verità è questa, sei sensibile. Ma perché ti vedo triste, abbattuto, ti vedo... Eh sì, lui scherza, ma in realtà è così. Capito? Però Sara da Vicenza ti scrive questa cosa proprio per te. Caro Umberto, se vuoi riconquistare la tua lei, devi fare un gesto clamoroso, tipo proposta di matrimonio a sorpresa. E te pare che non ci ho pensato, no? Trovare un ragazzo romantico come te oggi è veramente difficile. Se ti va male con lei, sappi che ci sono io. Oddio, cioè, ma cioè, questa cosa poi... Andrea, che della regia ci mette sci, è un momento super toccante. Sara da Vicenza, magari è pure carina. Sì. Però sai che la verità è questa, no? Che quando uno è innamorato di una donna, no? Di un uomo o di qualunque cosa. Anche di un cane. Di qualsiasi cosa. Di un elefante. Quando una persona è innamorata, no? Non ce n'è per nessuno, giusto, Filippo? È così, pensi solo a quella, all'oggetto del tuo amore. Pensi solo a quella persona, no? E i tuoi amici ti dicono: sei un coglione, fai chiodo, schiaccia chiodo, no? Per te non è così. Per me no. Quindi per tu non hai altre donne, non hai avuto altre donne dopo. Ma sai, voglio dire, questa domanda mi mette un po' in crisi. Però il senso è che chiodo, scaccia chiodo, o comunque una persa, 100 trovate, cioè poi alla fine stringi, non funziona. E questa è la verità, no? Lo chiedo a voi, ai nostri radioascoltatori. Cioè, quando uno soffre per amore, chiodo, scaccia chiodo, funziona o no? Questa è la domanda. Rispondeteci, scriveteci, mandateci anche un messaggio alla segreteria telefonica al 0246 524182. Siamo qui tutto orecchie. E questa è la verità, e questa è la verità. Quando uno soffre per amore, non ce n'è per nessuno, no? Umberto ti aspetta ancora. Umberto è qui, a Milano. Comunque, io, la verità è questa, no? Ovviamente io ci ho provato in tutti i modi, no? Però, voglio dire, magari la mia inventiva, la mia creatività, insomma, non è bastata, no? Quindi un altro appello che faccio ai nostri radioascoltatori, ai fuori posto, no? Che ci ascoltano da sotto l'ombrellone, al lavoro, in ufficio, sotto, in montagna, sotto il caldo torrido, no? In macchina, incasinati nel traffico, no? Cioè, chi c'è? Magari se qualcuno di loro ha un suggerimento, no? Per la nostra rubrica Fuori Amore, no? Noi siamo qua. È ben accetto, no? Umberto, poi un giorno ci spiegherai perché ti ha lasciato. È una storia lunga. Vediamo se la affronteremo o meno. Però, insomma, stando sempre in tema di amore, no? Sì. Adesso in tema di corteggiamento, no? Sì, siamo in una fase un po' iniziale, no? Il corteggiamento è la fase iniziale di quando quasi come... quella più bella, no? È quella più bella. Poi, insomma... Il momento dei sogni, delle aspettative. Oddio, se lei ti dice sì o lui ti dice sì, certo, sì. Cioè, insomma... Sennò è un incubo, sennò si chiama buca. Sennò è un due di picche, no? Un due di picche. Chi di noi non l'ha preso, Filippo? Io ci ho campato tutta la vita a forza di buche. A me lo dici, cioè, poi una volta che mi è andata bene, ma pure mollato, quindi... A me una volta che mi è andata bene mi sono sposato, quindi eccoci qua. E, però, insomma, ritornando sempre al corteggiamento, no? Io lancerei il nostro radio reality. Ah, è un gran momento questo, il radio reality, sì. È vero. Il nostro radio reality che ha avuto grande successo nelle scorse puntate, ricordiamolo per quei pochissimi radioascoltatori. Tre persone, quattro massimo. Che se lo sono perso, no? Cioè, insomma, diciamo che dopo il Grande Fratello, il nostro radio reality è quello che ha fatto il botto di ascolti, no? O forse se la gioca, no? Abbiamo appena superato gli ascolti. Ah, va bene, ok. Me l'hanno comunicato dalla Quindi regia. Filippo Roma meglio di Alessia Marcuzzi? Molto meglio. Ottimo. Anche ottimo. Più carino, più piacente, più bello. Sì, diciamo. Più o meno siamo là, ma va. Vabbè. Senti, in che consiste questo radio reality, Filippo? Allora, noi mettiamo a confronto due ragazze che aspirano a diventare corteggiatrici e troniste del programma di Maria De Filippi. Sì, in quello che potrebbe, perché poi non è detto, magari Maria, che diciamolo è una grandissima, potrebbe ascoltarle. E magari dire perché no, cioè, perché no, e queste ragazze sono veramente molto determinate nel raggiungere il loro obiettivo e si devono fronteggiare in una sfida. Noi abbiamo conosciuto qualche puntata fa le due sfidanti, che sono Giada e Federica. E Federica. No, devo dire che c'è stata una missione molto ardua, no? Perché mentre alle corteggiatrici o comunque a tutti i programmi, perché poi va bene per il programma più famoso, ma anche quello più copiato, che è Uomini e Donne, ma poi ce ne sono tantissimi, no? I programmi di dating, no? Certo, di appuntamenti, certo. No? Appuntamento al buio e mille altri. Qual è la cosa? Che loro, mentre molte di queste ragazze si trovano di fronte a ragazzi bellissimi, ragazzi muscolosi, palestrati, scolpiti direi, no? Ste due poveracce si sono dovute confrontare con te. Gli tocca sta sfiga, sì. Che dobbiamo fare? Hanno dovuto corteggiare te. Quindi questo passa al convento per loro, ahimè. Però se vogliono arrivare a raggiungere il loro traguardo, il loro obiettivo, uomini e donne, devono corteggiarmi, devono conquistarmi. Allora, noi nei giorni scorsi abbiamo ospitato Giada, che per chi non se la fosse persa la riassumiamo con una frase, che è questa: sei una grandissima bugiarda comunque, Federica, sei una grandissima capone e bugiarda. E anche Federica. Allora Giada, scusa, non ho capito l'ultima esterna, che senso aveva? Quello che abbiamo visto noi è che sei semplicemente una falsa. Ora, la domanda che io ti porgo, no? Sapevo che tu mi avresti posta sta domanda. Per te, caro Filippo, è arrivato il momento della scelta. Allora, Filippo, Allora, hai avuto qualche giorno per pensarci? E non ci ho dormito la notte. È un momento delicatissimo, perché per una di loro due l'avventura di corteggiarti e di fare un'esterna con te, una radio esterna con te, potrebbe finire qui. Quindi hai avuto qualche giorno, io ti chiedo, anzi ti concedo, io e i nostri radioascoltatori ti concediamo ancora qualche secondo, sì, sì. Chiedo ad Andrea dalla regia di accompagnare questi ultimi secondi che ti conducono verso la scelta. Grazie, sì, perché musica. Ho bisogno di un ultimo momento di concentrazione e di raccoglimento, perché sono veramente molto indeciso. Chiunque volesse consigliarlo può scriverci. Hai 5 secondi di tempo per decretare chi scegli tra Giada e Federica. Va bene. Partono da questo momento 5 secondi. Sì. Allora, caro Filippo, chi decidi di portare avanti con te nell'avvicinamento al trono e quindi alla tua persona tra Giada e Federica? Ho scelto Giada. Mi ha colpito la sua sensibilità. Che ti ha colpito oltre la sensibilità? Mi ha colpito questo mondo fatto di valori. Ah, di valori? Di valori. Ah, perché sei riuscito ad andare oltre quindi l'aspetto fisico. Sì, perché la donna non è soltanto estetica. Giada è piacente, è bella, ma lo è anche Federica. Ma Giada mi ha colpito per questo suo mondo interiore fatto di cose molto alte, molto belle. Vabbè, ma scusa, posso dire una cosa? I nostri potenti mezzi hanno fatto sì che Giada fosse già qui con noi, quindi in ascolto, quindi ha ascoltato la tua scelta e anche, ahimè, purtroppo Federica. Ci dispiace però per Federica. Dobbiamo salutare Federica e collegarci immediatamente con Giada. Ci sei? Ciao, ciao a tutti, ciao Filippo. Giada, non ho potuto fare a meno di sceglierti alla fine. Guarda, veramente mi hai colpito tanto. Sei contenta? Sono felicissima e non aspettavo altro, onestamente. Emozionata? Sono veramente emozionatissima e non vedo l'ora di fare un'esterna con te. Cosa provi in questo momento? Beh, provo gioia, provo emozioni forti, non me l'aspettavo onestamente, ti speravo, ti ho pensato tutta la notte, tutta ma la notte. Non me l'aspettavo. Allora, cosa hai pensato tutta la notte, si può dire in radio o no? Dillo, dillo. No, attenzione, attenzione. Giada, mo ci tengo, t'ho scelto e me lo devi dire. Pensieri sconci, quindi. Cosa hai pensato questa notte? No, pensieri sconci, ho sperato, ho pensato a tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme in queste esterne. Tu fai uso di droga? Di droghe? No, no. Super alcolici? No, sono astemia. Anfetamine? No. E come cazzo ti piace Filippo Roma? Non tutti i gusti sono alla menta, no? Meno male che a tutti non ci piace la stessa persona. Ah, non sono alla menta. Sarebbe un bel casino. Cioè, Filippo potrebbe essere al cioccolato. Sono un cioccolato caldo. Un cioccolatino ripieno di rum. Umberto cerca l'amore e io ho perso un amico perché Umberto continua ad offendermi sottovalutando la mia bellezza. Sì, perché io... no? Scusa. È solo invidia, Filippo. Diglielo. È invidia perché in realtà lui è bello. Sì, è vero, è bello. Senti, Giada, allora io ti invito, no? A non montarti la testa e a mantenere i piedi per terra, perché il tuo percorso è fatto di step by step. Hai superato un primo gradino, no? Hai visto quanto sono anche... Hai una pronuncia dell'inglese molto, molto forte. Anglo-napoletana. Allora, io ti dico, allora, hai superato il primo livello di difficoltà. Il primo no? passaggio, questo, però, dai. Filippo ha detto una cosa molto chiara, no? Ha detto, di Giada mi... hanno colpito i valori, no? I valori, adesso certo. Io che sono un po' un coglione e anche smemorato, non mi ricordo quali sono i tuoi valori, no? Quindi, per i nostri radioascoltatori, io ti chiedo, quali sono i valori fondamentali della vita per te? Per me fare televisione e vestirsi assolutamente firmati è davvero un enorme successo. Ah, vedi che ci ho preso? Momento. Io lo dicevo. Momento aulico, due secondi, prendiamoci due secondi per questi... Allora, commentiamo questi valori. Io già sapevo che tu avevi questi valori e io per questo ti ho scelto, perché tu hai ben chiaro cosa conta nella vita. I maschi, insomma, non l'hanno presa proprio bene. Che dicono? Dicono, una come Giada, meglio perderla che trovarla. Ma come rispondiamo, Giada? Ma va. Non avete capito niente dalla brava vita. Mi piace con questo carattere, Giada, mi piace così che quindi reagisci. A Paolo lo mandiamo a vaffan bip, cioè diciamo, perché secondo te Paolo rosica per quello ti dice una come Giada è meglio perderla che trovarla? Esatto, rosica perché magari vorrebbe trovarsi nella mia stessa situazione e allora rosica e quindi che vada a stendere. Senti, tu sogni, allora noi ovviamente tu ambisci al trono, no? Però ovviamente sei partita come corteggiatrice perché bisogna fare la gavetta come in tutto, no? Ti tocca Beh, pure a te. Certo. Ricordiamolo, Giada, quanti anni hai? Io ho 25 anni. E sei una maestra, no? D'asilo, giusto? Sono un'educatrice d'infanzia. Un'educatrice d'infanzia, quindi saranno contenti tutti i genitori che hanno come maestra, perché comunque è una brava ragazza. Avere una maestra di questo livello valori è una soddisfazione, saldi. Valori saldi. Allora, come ti dicevo, tieni però, i piedi saldi per terra perché il tuo percorso non finisce qui. È appena iniziato, Giada. E oggi dovrai scontrarti, no? Sì. Con un'altra contendente, no? A quella che è l'aspirazione massima, all'uomo ideale, l'uomo dei sogni, a Filippo Roma, no? L'uomo dei sogni. L'uomo dei sogni, cioè, eppure io sono astemio, non mi drogo, non bevo, diciamo. Però sono, cioè, faccio fatica a dire Filippo Roma l'uomo dei sogni. L'uomo dei sogni, mi sogno anch'io, guarda, la notte mi sogno allora, lo stesso. L'altra pretendente, no? Insomma, quella che ti sfiderà oggi, si chiama Silvia. Ci sei, Silvia? Sì, ciao a tutti. Ciao Silvia, piacere. Ascolta Silvia, qual è il tuo sogno? Allora, il mio sogno è diventare tronista perché credo che sia comunque un'esperienza da fare. Perché? Perché comunque tipo ti metti innanzitutto la grinta. Serve giusto. La grinta? No, certo. Beh, un'esperienza grinta, di vita. Poi? Sì. E poi perché comunque cioè, nel mondo del lavoro, così dello spettacolo, poi a me piace molto la TV. Perché ti piace? Cioè, ti piace la TV? Cosa ti piace la TV? Io non l'avrei mai detto, Filippo. No, neanche io, però... Io pensavo ti piace... Cioè, della radio non ti frega un cazzo? La radio non ti frega un cazzo? No, anche, per carità. Qual è la tua radio preferita? La tua radio preferita? Rete 24. Rete 24. Sì, ci siamo, sì, quasi, Rete 24, diciamo. Quasi, quasi. No, si chiama Studio 54. Ma ascolta una cosa, Silvia, ma a te piacerebbe diventare famosa, riconoscibile dalle persone? Sì, perché... ovviamente è uno dei miei valori. Pure questo è un valore importante. In questo sei molto simile a Giada. Infatti la sfida la vedo, cioè, molto complicata. Sì, perché qualcosa le accomune, no? Hanno i valori che le accomunano. Che ti piace di più dell'essere corteggiatrice, di andare in TV? Che ti piace? Che ti piace? Diccelo. A parte che è un'esperienza di vita, come ci hai detto. Sì. Ma conoscere anche nuove persone, fare nuove amicizie, certo. Incontrare giusto. Maria, che saluto. Salutiamo Maria. Salutiamola tutti, caldamente. Maria. Applausi per Maria. Applausi per Maria. Allora, facciamo in questo modo, no? È arrivato il momento del corteggiamento, quello che a me piace tanto. Eh sì, allora, adesso, concentrati, prenditi il tuo tempo, se ti serve il tuo tempo, e immaginati Filippo Roma. Te lo immagini? Se vuoi anche un po' mezzo nudo, insomma, così, insomma. Immaginatelo così, tipo da spiaggia, no? È agosto, fa caldo, quindi... Adesso non ti eccitare subito, Immaginatelo anche un po' sudato. Non ti eccitare. E digli qualcosa per farlo cadere ai tuoi piedi. Conquistami. Vai, è tutto per te. Guarda, Filippo, io sono venuta qua perché io... ti ho visto, no, dallo schermo e mi sei piaciuto. Già, ma stiamo in radio, quale schermo? Non visto. Ma rifacciamolo, vai, rifacciamolo. Riparti, vai, ricomincia. Vai. Oddio. Allora, vai. Tutti quelli che ci stanno ascoltando. Vai, ci scrive Paola che sei una rincoglionita. Come rispondiamo a Paola? Non tutte le ciambelle nascono col buco. Vabbè, lasciamo stare questa argomento. Rifacciamo. Allora, vai, di una cosa carina a Filippo. Cosa ti piace di Filippo? Ok. Ho appena sentito la sua voce, ti giuro, è caldissima. Ah, ma sì, si vede che proprio emoziona lui. Ma veramente? Parla. Guarda, mi commuovo, sì. Ti commuove addirittura? Lo giuro, lo adoro. Ascolta, ma lo adori? Dovendo conquistarmi, no? Ad esempio, dove mi porteresti stasera? Allora. Non è una domanda difficile, non ti ha chiesto? Sì, no, stavo immaginando la situazione. Bravo, una situazione, dai, cerca di... Dove? Dimmi una situazione, vai. Si sta in un falò su una spiaggia. In un falò, cioè proprio dentro al falò lo porteresti? Sì, in una spiaggia dove si trova, si svolge un falò. Dove troviamo la spiaggia dove si svolge il falò? Comunque, vabbè, dai, vai avanti. Cioè, ma non è che c'ha altre mire velate da mire? Cioè, lei vuole portarti in una spiaggia? Cioè, tipo quale spiaggia? Cioè, tipo una spiaggia in Val d'Aosta, ti piacerebbe? Ma l'idroscalo, la stessa cosa, c'è dell'acqua, via. Dove, l'idroscalo, quindi già in ambiente, vabbè, l'idroscalo. Cioè. Ma poi, di fronte a questo falò, no? Cosa dovremmo fare? Che mi proponi? Parliamo, beviamo qualcosa. Parliamo. Se vuoi fare altro, non lo so. Ah, perché tu saresti già disposto a... Potremmo già... Scusa, attenzione. Che succede? Vabbè, è un colpo scorretto, Lei butta subito, se vogliamo fare però qualcosa. No, è interessante questa cosa, ma già potremmo fare l'amore la prima sera? Giada? No, ho alzato le mani, ho detto conosciamo. Giada? Vabbè. Sì, ci sono, È scorretta, Parti? Scorrettissima sei, ma cosa pensi? Già la prima esterna a portartela a letto? Di vergognati. Sei una grandissima pagliaccia, vergognati. E tu dici, no, io me lo porto a letto perché mi piace. Ma Giada, ma se tu sei andata anche da un altro, scusa, e manco è rivenuta per lui? Dici, sei falsissima, mi meraviglio. Ma tu cosa ne sai? Della mia vita? Sei una grandissima falsa. Vai, forza. Che vai in esterna con Filippo, anziché godarti il momento con Filippo, parli di me, di come mi vesto, di cosa faccio, di cosa non faccio. Vabbè, rispondi Silvia che ti sta accavallando. No, forse tu non hai capito, no? Perché la falsa non sono io, tu sei Giuda in confronto. Lui che litigano per Filippo Roma, ci rendiamo conto. Che gusto, devo fare un programma radiofonico che trovi due belle ragazze e dedicassero per me. Mamma, se ti rendi conto. Grazie Umberto, fortuna. Prego, continuate a litigare. Io voglio andare oltre alla prima l'ultima esterna saranno cavoli miei, perché brava, chi giudica è un falso comunque. Nessuno sta giudicando, la prima a giudicare sei no, tu. No, no, stai giudicando. Io. Vergognati, mi vergognati. Devo dire che ce l'ha solo per le telecamere, non perché brava, sei una schifosa. Scusa, e tu che sei andata per un altro, cosa devo dire? Ma tu cosa ne sai? È uno dei momenti più alti di Radio 24, credo della radiofonia in generale, nel panorama nazionale. Sì. Continuate, prego, non litigate. Quindi sei pregata, quando vai in esterna con Filippo, a non nominare la sottoscritta. Ah, ok, l'hai nominata, c'ero io, mi ricordo. Vabbè, facciamo così. Ma mi sembrano belle aizzate, Vabbè, allora facciamo così. Filippo, io a questo punto veramente inizio ad avere difficoltà. Sai? Allora, noi ringraziamo Giada e ringraziamo Silvia. Ragazzi, ci penso, siete state tutte e due molto brave, mi avete tutte e due stimolato, però per me a questo punto si impone l'obbligo di una scelta e non potrò darvi subito la risposta perché dovrò pensarci approfonditamente. Allora, facciamo così. Prendiamoci ancora un po' di tempo. Sì, no? mi serve. Ringraziamo Giada, ringraziamo Silvia. Tu prendi tutto il tempo che ti serve. Sì, questa volta la scelta è molto più complicata, Umberto, perché sono due ragazze dai valori molto simili. Sì, molto forti. Molto forti, molto importanti. Mm-hmm. Mettono al centro della loro esistenza degli elementi fondamentali. Ti posso fare una domanda? Sì. Ma saresti disposto, per Giada o per Silvia, a mandare all'aria il tuo matrimonio? Ventennale, no, credo? Sì. Saresti disposto? Sì, subito. Ragazzi, io che lo conosco subito, da anni, subito. Lo vedo veramente convinto. Leggo nei suoi occhi che c'è subito. Sincerità. Comunque, e, diciamo, propenderò per chi la sera in cui ci vedremo ti concederà. Beh, te lo dico. Ti posso dire la verità, io sto a fare sto programma perché voglio rimorchiare. Allora, tu vuoi trovare l'amore, voglio rimorchiare. Lo diciamo. Allora, tutti fuori posto che ci stanno ascoltando da sotto l'ombrellone, in autostrada. In montagna. Cioè, fate sì che questo matrimonio non finisca. Oppure consigliate Filippo nella scelta, no? Cioè, chi voterà per Giada e chi voterà per Silvia. Se volete potete lasciarci anche un semplice consiglio, no? O se volete partecipare al nostro Radio Reality, dove possono scriverci o dove possono contattarci? I fuoriposto @radio24.it oppure via sms al 349-2386-666 oppure lasciarci un messaggio in segreteria allo 0246-524182. Vi aspettiamo. Fa caldo, ma noi non vi lasciamo. Umberto, a proposito di fuoriposto, di chi cerca un posto e di chi un posto alla fine clamorosamente l'ha trovato, oggi so che abbiamo una storia veramente incredibile e molto bella, dall'altro. Di due fuoriposto per eccellenza. E pensa, anche quando dall'unione di questi due fuoriposto, no? Sono probabilmente nati altri fuoriposto, ma in realtà molte persone sono a posto, ma sono gli altri che le fanno sentire fuori posto, no? Scusate il gioco di parole, anche un po' un po' fuori posto anche il gioco di parole. Però oggi volevamo raccontarvi la storia di Marta e Johnny. Caro Filippo, Marta e Johnny, perché dico sono due fuori posto? Marta è una ragazza italiana, borghese, siciliana. Johnny è un immigrato che proprio con la forza di volontà e con la voglia di sopravvivere è scappato dal suo paese di origine, che adesso ci dirà, e è arrivato in Italia, no? È arrivato in un centro d'accoglienza e poi piano piano ha cercato di inserirsi nel tessuto sociale. Ha trovato l'amore, questa è la cosa. Ha trovato l'amore, che sembra molto bella, no? Sì, ha trovato l'amore perché Marta poi dopo un po' si è innamorata di Johnny, abbattendo una serie di barriere e di preconcetti sugli immigrati, sui neri, sull'uomo brutto, cattivo. E adesso sono felicemente innamorati e sposati e hanno ben due bambini. Porca miseria, quindi una storia con un lieto fine eccezionale, addirittura con la nascita di due bambini. Ma da dove inizia questa storia? Facciamocelo raccontare direttamente da loro. Ci sei, Marta? Sì. Johnny? Sì, ciao. Buonasera, signori. Ciao, Johnny. Tu di dove sei? Di dove sei originario? Di origine sono nigeriano. Tu sei nigeriano. Ecco, raccontaci la tua storia. Quando e da dove inizia? E tutto è iniziato nel 2008, dopo un problema familiare, diciamo, tra virgolette, e ero costretto di fuggire, di abbandonare proprio il paese. È stato un momento molto terribile, un ragazzo giovane che fugge, scappa dalla famiglia, ma anche se aveva la possibilità di salutarsi la famiglia, mi sono fuggito. Niente, ho fatto la strada attraversando il deserto, e poi con i Bacone, fortunatamente, grazie al Signore, sono arrivato qua in Italia. Di preciso, scusa Johnny, il deserto come lo hai attraversato? Oddio ragazzi, non mi fate pensare quello tempo, dai. Raccontaci, dai. Mi viene a piangere proprio. Inizialmente pensavamo che un viaggio che doveva durare per 2 giorni o massimo in 3 giorni. Niente, siamo partiti in una macchina di 4x4 fuori strada, una macchina che massimo si deve andare 5 persone, massimo già esagerato. Ma avevamo 34 in macchina. Cioè, 34 persone in una macchina, ma com'è possibile, Johnny? È una con cosa... 35-40 gradi, diciamo, senza cibo, senza pane, senza niente, avevamo poca acqua. E uno viaggiando senza sapere dove sta andando, perché non è che deserto bello grande, non si vede da nessuna parte, quindi ci abbiamo preoccupato tanto. Scusa, di 34 persone, quante sono arrivate vive a destinazione? Siamo arrivati in 32, due sono morti. Due sono morti durante il viaggio? Sì, e come li avete abbandonati nel deserto? Ma veramente, con le mani abbiamo, in poco parole abbiamo fatto il funerale, in deserto lì, io che mi ricordo benissimo, questi due ragazzi ancora, che non ho dimenticato loro mai. È stata la prima volta che con nostre mani abbiamo fatto il funerale per questi ragazzi, in deserto proprio. E poi avete proseguito il viaggio, giusto? Sì, certo. Non abbiamo nessuna scelta, il viaggio deve continuare. Che più che rimane triste, più brutto diventa le cose. Quindi uno deve fare finta che le cose stanno andando bene. Cerchiamo di tenere duro finché che arriviamo alla nostra destinazione. E poi questa avventura come è proseguita? Cioè dal deserto che avete attraversato il mare? Sì. Abbiamo fatto il deserto. Perché, ripeto, sono nigeriano, siamo partiti dalla Nigeria proprio. Attraversato il Niger, che è un paese molto vicino a Nigeria pure, per arrivare in Libia. Quindi questo viaggio viene fatto via macchina, cioè, perché le deserto deve passare con la macchina. Certo. Arrivando in Libia e poi inizia il secondo parto di viaggio con la barca. E com'è andata questa attraversata con la barca, con un barcone? Con le barcone, eravamo 78 persone, in cui c'erano donne in gravidanza. E bambine. Per fortuna il viaggio per molti di voi è finito a buon fine e Johnny ha conosciuto Marta, quindi io direi, visto che è una storia bellissima che parla di integrazione, io farei qualche minuto di pubblicità e tornerei subito dopo con Marta, l'altra metà. Sono d'accordo, perché adesso abbiamo ascoltato la parte triste della vicenda di Johnny, ora dobbiamo ascoltare quella bella, quella allegra. Sì, dell'unione. Quindi facciamo qualche minuto di pubblicità e torniamo tra pochissimo, sempre qui su Radio 24. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fuori posto. Eccoci di nuovo ai Fuori posto. Filippo Roma che vi parla, Umberto Alezio qui accanto a me. Stiamo raccontando la meravigliosa storia d'amore tra Johnny, immigrato nigeriano che scappa in Italia e incontra in Sicilia a Marsala Marta. Incontra l'amore, nasce una bellissima storia d'amore. Abbiamo appena sentito la storia di Johnny, le sue traversie, e ora però vogliamo conoscere e ascoltare Marta. Marta, ci sei? Sì, ciao ragazzi, eccomi. Allora, dici la verità. Quando hai capito che ti eri innamorata di Johnny, no? Definito da molti un negro, un immigrato di merda, no? Uno che ruba di tutto, no? Pur di sopravvivere. Quando ti sei innamorata di Johnny, che io poi ho avuto il piacere di conoscere, una persona fantastica, quanto ti hanno fatto sentire fuori posto le tue amiche, i tuoi concittadini, la gente del paese? Fortunatamente le mie amiche no, la mia famiglia no, più che altro forse la gente del paese, quelli più retrogradi, ma per fortuna chi mi sta intorno e mi affetti non mi hanno fatto pesare assolutamente la cosa. Anzi. E che ti diceva la gente del paese? La bianca che sta col nero solo per il sesso, il nero sta la bianca con per i documenti, insomma le solite così fatte, ecco, che purtroppo forse a volte fanno male. Io cercavo di farmele scivolare, però sai, a volte magari pesano. E ti facevano incazzare queste dicerie, queste cose che ti dicevano? Sì, tanto, tanto, tanto, perché a volte magari lo dicevano mentre camminavamo, quindi da dietro io sentivo qualcosina. Altre volte magari si creavano profili falsi sui social per mandarmi messaggi con insulti. Però dico, alla fine noi siamo qui. Quindi... meno male, meno male. Dimmi sì. L'insulto più brutto che ti ha fatto più male che hai ricevuto. Che ho un figlio pieno di Ebola. Pensa che coglioni. Sì. Per fortuna oggi avete due splendidi figli, no? Sì, sì, sì, due. Marta, come l'hai conosciuto Johnny? Allora, io lavoravo in un centro d'accoglienza nel 2009 circa. Lui, vedendo la mia foto, tramite un ospite che aveva la mia foto, decise di venire lì al centro a conoscermi. Io però allora ero fidanzata, quindi sai, me ne fregava proprio niente. Lo guardavo, ok, perché era un bel ragazzo, però non me ne fregava più di tanto. Poi però col tempo mi sono lasciata, quindi poi ho avuto dei ripensamenti, ho pensato vabbè, guarda, forse è meglio contattarlo, forse è meglio sentirlo, ma non riuscivo comunque a rintracciarlo in alcun modo perché non avevo il suo contatto. Lui però aveva il mio. Bravo, bravo, dagli Johnny, dagli. Sì, e quindi niente, dopo vari corteggiamenti da parte sua io sono un attimino crollata e quindi dopo qualche mese... Hai capitolato. Sì, qualche mese ci siamo messi insieme. Senti, adesso che avete due splendidi figli e il vostro amore è sbocciato, la gente, i cattivi, no? Vi fa sentire sempre fuori posto o no? No, assolutamente no, perché noi non ci sentiamo fuori posto, noi siamo una coppia normale come tante altre, forse abbiamo qualcosina in più perché appunto non finiamo mai di conoscerci, le culture diverse ci arricchiscono giorno dopo giorno, quindi secondo me abbiamo questa cosina proprio in più rispetto alle altre coppie. Senti, quindi no, fuori posto no. C'è qualcosa che però ti fa incazzare di Johnny? Sì. Il disordine, sono tre. Hai un disordinato. Senti Johnny, ma quando senti al TG certe frasi, gli dobbiamo sparare se si avvicinano in Italia, basta i Milano, tu cosa pensi? Allora, io per essere sincero, questa cosa mi dà un po' fastidio, veramente un po' fastidioso. Che hai pure ragione. Alcune persone parlano dal loro punto di vista o a base della loro mentalità. E che a chi non è passato, non è vissuto, diciamo, questo posto dove vengono queste persone, come vengono chiamate, non sa quanto è brutto, quanto sofferenza o quanto pericolo che hanno vissuto queste persone. Ma io, siccome alla fine basta un abbraccio e siamo tutti tranquilli. Anche alla fine basta un abbraccio. Basta un abbraccio, che la storia di Johnny e Marta dimostra che l'integrazione è possibile. Va bene, grazie mille Marta, Johnny, noi facciamo i nostri migliori auguri. Ciao e un bacio ai pupi. Grazie a voi ragazzi. Grazie a voi. E mi raccomando, se vi fanno sentire fuori posto, fregatemene. Grazie ragazzi, vivo da 24. Grazie. Ciao, grazie. Grazie Johnny, grazie. Ci sta pure una mano Johnny. Ci ha fatto un minimo di spot, grazie. Bravo, Johnny. Johnny, mi sta simpatico Johnny. E visto che, caro Filippo, oggi fa caldissimo, no? Parecchio oggi, e... sì. Detto ciò, abbiamo l'aria condizionata a palla, quindi cerchiamo, come dire, di trovare un piccolo sollievo. E parliamo quindi di clima, di ambiente, no? E con chi ne parliamo? Ne parliamo con una giovane e aspirante politica, no? Lei dice che è già politica, no? Che è Martina Dell'Ombra. Ah, di nuovo lei? Eh sì, di nuovo lei, perché non la vuoi? Va bene, va bene. Martina Dell'Ombra, perché so, no? Ho letto, no? Mi è arrivato un piccione viaggiatore, mi ha detto che lei ha trovato, ha avuto, anzi più che altro, una grande idea, no? Che forse è più grande di... chi ha avuto l'idea della penicillina, di chi ha inventato la lampadina. Addirittura. Sì, ha avuto una grande idea per eliminare il buco nell'ozono, no? E abbassare la temperatura media. È giusto, Martina? Ciao ragazzi! Ciao Martina, ciao. Benvenuta ai Fuori Posto! Ma Martina, è vera questa storia che tu hai trovato la soluzione per risolvere il problema del buco dell'ozono? Allora, io tanto come sempre facendo politica sono partita da un problema reale, quindi da dei disagiati, che sono quelli che si lamentano del caldo. Fa caldo. Beh, lamentarsi del caldo è un po' una tipica cosa da gente che raccoglie pomodori, diciamo. Cioè, le persone veramente di livello non si dovrebbero lamentare del caldo. Quelli però ci stanno sotto il sole piegati a raccogliere pomodori e non dovrebbero neanche lamentarsi, scusa. No, ma assolutamente, ma nessuno si dovrebbe lamentare del caldo. Ma secondo te a Dubai si lamentano del caldo? No, sono super ricchi, hanno i palazzi rinfrescati, le macchine rinfrescate, mica si lamentano del caldo. Sì, ho capito, Martina, ma che c'entra? Cioè, mica tutti hanno i soldi degli sceicchi a Dubai, cioè. Vabbè, è appunto, quelli che non hanno i soldi dovrebbero stare a raccogliere pomodori. Io non ma come ti permetti? Non si lamentano, cioè, almeno non si lamentano, perché comunque non puttano poi, perché le persone sudano, c'è caldo, è una cosa tremenda, veramente. Scusa, ma non esagerare. Martina, ma grazie che non si lamentano, magari hanno la possibilità di stare in un ambiente con l'aria condizionata, no? Perché gente che se la può permettere, non tutti si possono permettere l'aria condizionata. Secondo me non è un caso che i paesi poveri sono i paesi caldi. Il caldo è una cosa proprio da poveri. No, dai. Cioè, tu dici il caldo è da poveri. Il caldo è da poveri, Umberto. Questa ci fa cacciare, eh? Questa ci fa cacciare. No, pensateci, l'Africa, l'India, sono tutti i posti dove fa caldo, quindi evidentemente... Scusami, ma stai scherzando? No. Anche Sud America, tutti i posti caldi sono poveri. Scusa, ma intanto adesso la gran parte degli italiani è in vacanza, no? Immagino anche tu sarai in vacanza, no? Dove sei? A Ostia, in un bagno pubblico? Dove sei? In una piscina comunale? Dove sei? No, guarda, Ostia ci va sua sorella, probabilmente. Ma come ti permetti? Ma Ostia ci vado, no, scusa, Martina, ma Ostia ci sono stato anch'io 3 settimane fa. Ad Ostia ci vanno veramente. È offensiva oggi, eh? Molto poco abbienti, e veramente non è il mio caso. Ma Ostia è comunque un posto bello dove c'è un turismo molto popolare. C'è gente. Ma c'è gente. Io me ne vado casomai in Sardegna, in barca a vela. Ma scusa, okay, Martina, ma un politico non dovrebbe stare in mezzo alla gente per capire proprio i problemi della gente? Ma in mezzo alla gente a Ostia, ma sei pazzo. E lì no, ci sono le persone che hanno i problemi. Ma i problemi della gente si capiscono su internet, così fanno tutti i politici. Dai, Martina, però ti prego, dai, non puoi fare così. Cioè, il bello di un politico è stare in mezzo alle classi più disagiate. Ma per finta! Ma come? Come scusa, per finta? Grandi... Lo fanno per finta, ma mica se crederete. Ma allora, intanto Francesca dice: sei la vergogna di tutte le donne. No, porella Francesca, ci avrà le tette piccole, vabbè. Ma che c'è? Ma che l'offesa fisica adesso? Che c'è? Ma ce l'hai con quelle che hanno le tette piccole? Che c'è? Le tette piccole? No, però, quelle che hanno le tette piccole un po' rosicano, porella. Io non lo so, Francesca... Francesca, fai la colletta e rifatti le tette. Ma scusa, adesso, Francesca ci ha scritto, io non la conosco, è una delle tante ascoltatrici che in questo momento sono sintonizzate sui fuoriposto. Però che c'entra le tette piccole? Scusa Martina, che c'entra l'aspetto fisico in un essere umano, in un politico? Conta quello? No, sicuramente sì. Come vedi, il governo Renzi sono tutti belli, tranne qualcuno. Però la Boschi è molto bella, e questo sicuramente è fondamentale. È molto bella, ma è anche molto brava. Immagino che abbia una preparazione molto profonda, no? La Boschi è bravissima, perché quando è in difficoltà, è successo qualche tempo fa, quando è in difficoltà a spiegare le cose, si toglie la giacca. Ma che dici? Ma quando mai? Ma che stai dicendo? Ma in quel caso, io mi ricordo, no? La circostanza, quando si è tolta la giacca, perché aveva caldo? Tu te lo ricordi, perché appunto a distanza... Non è vero! Ti ricordi di cosa stava parlando? E mi ricordo, effettivamente no. Allora, scusa Martina, facci capire, chi è il tuo modello, chi è il tuo politico di riferimento? La Boschi. Quindi ti piace? Ti piace alla fine la Boschi? Assolutamente tantissimo. Ci restano 30 secondi, no? Per abbassare la temperatura globale, no? Sai che c'è lo scioglimento dei ghiacciai, il buco nell'ozono, il buco dell'ozono e tutto. Allora, c'hai un'idea concreta, vera? Sì, io sono molto super ecologica e ho elaborato questa cosa che secondo me è molto pratica e molto semplice, può essere una grandissima idea. Per abbassare la temperatura globale basterebbe che tutti quanti, tutta la popolazione ovviamente ricca del mondo che lo può fare, contemporaneamente accendessero i climatizzatori. Ma come? E tutta questa aria fredda condizionata si inquina un sacco e raffredda tutta l'aria del mondo, e quindi si abbassa la temperatura per forza se la accendiamo tutti insieme. Oddio, c'è qualcosa che non va in questa teoria. Sì, sì. Con le finestre aperte, ovviamente, no? La devi far uscire fuori l'aria fredda, devi raffreddare tutto il pianeta e poi ti tornano le temperature normali. Vabbè, ma è un po' inquietante questa tua visione. Sì, molto inquietante. Molto inquietante. Io mi fermerei qui, insomma, mi dissocio, ovviamente. Martina, ci sentiamo magari in una delle prossime puntate, dai. Va bene, un chissino a tutti gli ascoltatori, anche a voi. Rieccola con sto chissino. Vabbè, ciao Martina, ciao. Ciao, un chissino, ciao. Ciao, vabbè, un chissino, ciao. A tra poco. I fuori posto. Eh sì, bentornati ai fuori posto. Siamo quasi giunti alla fine di questa puntata, però... Però c'è un però, perché abbiamo capito che questo può essere un angolo molto importante. L'abbiamo inaugurato da poco e trattiamo un tema che è molto affine a Radio 24, perché si parla di economia, di consigli ai risparmiatori, di trattamento di temi che occupano, diciamo, le prime pagine dei giornali. E abbiamo scovato un grande opinionista, un grande economista, che ascolteremo anche oggi e che sta riscuotendo molto successo. Sì, diciamo che è un uomo prestato all'economia, Ciruzzo Tozzi. Un uomo prestato all'economia, ma... Pensa che i nostri ascoltatori ci stanno inondando di messaggi, e c'è in particolare Antonio Davigevano, ci ha scritto su ifuoriposto@radio24.it una cosa che veramente ti dà molta soddisfazione, che capisci che diventiamo anche un servizio pubblico, no? Ha detto: finalmente ho capito quali saranno le conseguenze della Brexit sull'economia italiana. Ah, grazie alla spiegazione di Ciruzzo Tozzi? Sì. Ma dai, mo che dobbiamo riospitarci Ciruzzo Tozzi pure oggi? Tutti lo vogliono. Filippo, cioè, di nuovo qui? Quindi di dobbiamo nuovo. Far ripartire... la nostra rubrica Fuori Economia? Eh già. Ci sei, Ciruzzo? Sì, pronto? Buongiorno. Bentornato ai Fuori Posto, questo è Radio 24. Grazie, scusa un attimo, no, ogni tanto 20.000 euro, io la sagra della frittata non la faccio, ma è chiaro? Ma che stai a fare, Ciruzzo, scusa, eh? No, ogni tanno 20.000 euro su Munchia. Ciruzzo, stai in linea, stai in diretta. Oppure io non la faccio la serata, è inutile che parliamo. Io sono in diretta con la radio per l'economia, eh? Ma che sei matto? Hai fatto un intervento a Radio 24 e hai alzato il cachet a 20.000 euro? Ma che sei matto? Ragazzi, non è che ho razzato, siccome sei tanti, ho per farvi dire che prendo molto, ho detto però non è che poi prendo 20.000 a me anche su... possiamo anche trattare, diciamo la verità, se vi capita qualcosa... Ho capito, Ciruzzo, ma non si può fare questa cosa, è illegale! Cosa? Non si può fare questa cosa. Andiamo a vedere ci appelliamo al cappello, dai. Ma quale cappello? Andiamo a vedere il cappello adesso. Qui sei in una radio nazionale, un network nazionale e istituzionale soprattutto. Quindi... Non si sa mai, diciamo. Parliamo di economia. Parliamo di economia. Ciruzzo, fai il tuo mestiere. Il programma vostro è sull'economia. Mi chiamate per parlare di economia. Ho capito, ma non la tua economia. Non i cazzi tuoi, Ciruzzo. Qui dobbiamo pensare ai problemi degli italiani. Il problema è perché non sono italiano io? Dove sei nato tu? Io sono nato alla provincia di Mondragone. Ah, in provincia di Mondragone. Non si può sapere il nome, no? No, il nome senza... Per la privacy. Privacy, perché sennò vengono fino alla gente, vuole gli autografi, vuole... Passare a Fuori Economia, dici che l'argomento... Allora, prima di passare, appunto, lasciamo un po' da fuori l'economia adesso per un attimo e parliamo di... Bravo, prima di passare a Fuori Economia, dici i tuoi prossimi impegni discografici. A questo vedete, vi ringrazio e mi date la possibilità anche di fare un po' di promotion, diciamo. Dimmi. Vai. Un po' di promotion. Falla sta promotion, dai. Allora, domani parte la mia tournée. Addirittura? Sì. Dove vai di bello? Domani mattina, io di mattinata, perché faccio uno spettacolo a 8:30. Sul Vesuvio. Ma come? Dentro il Vesuvio? Dentro il cratere? No, sopra, il ristorante. Un ristorante sul Vesuvio? Sul Vesuvio. Sì, un bellissimo ristorante. Ma alle 8:30? Ma scusi, gli spettacoli non si fanno la sera, Filippo? Perché di mattina? È una festa di divorzio. Una festa di divorzio. A Napoli si fanno pure feste di divorzio. Sì, è una festa di divorzio. Praticamente questi sposi si vedono per festeggiare il loro divorzio. È una cosa molto carina, perché diciamo no, ho affittato questo ristorante, uno fa la festa da una parte e la moglie fa la festa dall'altra parte. Ah, quindi tu c'hai due serate, due mattinée, sì, diciamo. Io vado un po' da uno, faccio 10 minuti da uno e poi vado 10 minuti dall'altro. Cioè tu, venale come sei riuscito a venderti due serate in una coppia. No, ma è bello, perché tu poi vado da lui e faccio tutte le canzoni e poi parlo male della sposa, poi vado da lei, faccio tutte le canzoni e parlo male della sposa. Guarda, sei un essere sei venale, hai capito? Poi me ne vado e loro si incontrano e si viene ammazzate, è una cosa molto carina. Sei venale, d'altronde è un economista, deve essere venale. Bravo. Tu sei venale? Sei venale. Arteriale, sono un po'. No, magari arteriale. Diciamo. Vabbè, parliamo di economia. Allora, Ciruzzo, torniamo ai nostri temi seri. Allora, in un momento come questo, ad un risparmiatore che ha da parte alcuni soldi, che tipo di fondi di investimento consiglieresti? Ma io sono contrario, diciamo, contrario che sei. Perché? C'ha una posizione. Tu sei più per il mattone? Una posizione precisa, perché diciamo che la dice stessa la parola. Se uno fa l'investimento si affonda. Uno fa l'investimento si affonda. Sta sul pezzo oggi, Si affonda in che fondo senso? Fondo di investimento, che cosa dice la parola? Se fondo di investimento, se io faccio l'investimento mi affondo. Cioè, capito? Mi affondo, cioè vado male. Ma che fondo di investimento. Quindi che investimento faccio se mi voglio affondo? E allora il meglio del soldo me lo tengo sotto il cuscino dentro. La mattonella. I fondi di investimento sono degli investimenti che se c'hai mille, poi alla fine dell'investimento magari c'hai 1.500, capito? C'hai 1.200. Ah, questo vuol dire. Capito? No, allora va bene. Io c'ho un amico che se ci date 1.000, lui diciamo ve le fa avere 2.000 anche. E chi è questo? Pure, ma è legale questa cosa? Cioè ti raddoppia? Ragazzi, possono avere il cappello. Cioè, voi dire, volete dare 1.000 euro a me? Ragazzi, vogliamo investire o non vogliamo investire? A proposito, Ciruzzo, c'è un ascoltatore che ci scrive a ifuoriposto @radio24.it. Sì. Caro Ciruzzo, ho 100.000 euro da parte. Sì. Cosa mi consigli per farli fruttare? Ma guarda, secondo me l'investimento migliore in questo momento è il mercato nero. Puoi dire queste cose? No, è buono il mercato nero, perché ma non quello che pensate voi, attenzione. Allora quale? Allora un altro mercato nero, per esempio. I fondi esteri, dici, vuoi prendere fondi? Non precisamente, esteri sì, esteri. Mi siamo sul mercato delle nere. Se noi prendiamo siamo solo alle 24, ci cacciano via qua, Ciruzzo. Se rimettiamo per esempio per la strada, le gomme che bruciano vicino. Ma queste povere ragazze, facciamo quello per il bene. Allora, prendiamo le ragazze per i vertici di Radio 24, l'idea di ospitare Ciruzzo è stata di Filippo Roma. Mi dissocio, è tutta farina del sacco di Umberto Alezio. Sono totalmente in disaccordo. E poi dopo noi, mi sento questa cosa, noi con 100.000 euro, ragazzi, noi con 100.000 euro nell'arco di un anno, che facciamo? Facciamo contenti a loro, facciamo contenti alle nostre famiglie. Facciamo veramente ma non possiamo dare 100.000 euro a te, perché vogliamo far contenta la tua famiglia? Ma ragazzi, con 100.000 euro investo sulle mire, qua guadagniamo tutti. Scusa, che tasso... secondo te un buon investimento, che tasso devi avere? No? Parliamo sempre di fuori economia, quindi che tasso devi avere? Ma il tasso giusto secondo me è il buon investimento è il 10% al mese. Ah, 10%. Però come raggiungere un tasso di rendimento così elevato? Voi mi date 1.000 euro. Io vi faccio avere 10% al mese su 1.000 euro. Io vi faccio avere. Quanto sono 10% di 1.000 euro? Quando è semplice, la tabellina 1 per 1, 2 per 1, 2 per 2, 100 euro al mese ce dai. 1.100 euro, quando è 1.100 euro? 1.100. Cioè, quindi però dobbiamo dare, cioè praticamente ci stai dicendo che il miglior investimento è cioè dobbiamo dare dei soldi a te. Voi mi date i soldi a me, per esempio c'è un amico mio, mi dà 10%. Diciamo che fa l'8 perché lui si prende, diciamo, 2-3% se li vende lui, perché chiaramente. Ciruzzo, scusa. 1.100, 1.080 euro al mese, va bene per voi? Ma può andare. A proposito, ma no, non può andare, no, perché non possiamo dire ai nostri, a tutti quelli che ci ascoltano, di dare 1000 euro a Ciruzzo, perché poi... Ma io mi figlio di Ciruzzo, oh, perché... ma io ho il vago preferito. La cena da risolvere a Vanna Marchi, secondo voi non vi potete risolvere a me? Allora, pure Luci, questo c'è da dire che questo è vero, c'è da dire che... Risolvi perché cos'erano soldi persi, vabbè, soldi spersi. A questo punto il nostro... Invece i soldi a me sono investiti veramente, tutti questi. Benissimo, allora diciamo al nostro ascoltatore Luca da Padova che i suoi soldi può darli a Ciruzzo. Certamente. Ma tu nel caso ti dovessero dare 1000 euro, sì? Tu fai firmare il contratto, tutto regolare, paghi le tasse, tutto? Ragazzi, mo se lo vogliamo fare, questo lo facciamo fra di noi, tanto chi lo sa questa foglia. Ma di lo sa? Sei in radio, non puoi dire queste cose. Vabbè, sono in radio, ma chi ci sente? Scusa. La 24 ascoltatissima, Ciruzzo, lo sai? Sì? Allora non ho detto niente. Allora non ho detto... Senti, facciamo così, Ciruzzo, mi pare che... va in galera oggi, così, va a finire che poi vado pure in galera. Certo, se tu vuoi, parli di nero, investimenti con persone, cioè, non è proprio il massimo della legalità. Qui ci ascolta la Guardia di Finanza pure, Comunque mi pare di capire. La Guardia di Finanza va spesso dove venire. Vabbè, lasciamo perdere. Va sulle tue sere? No, con le nere ha detto. Senti, con le nere? Questa rubrica oggi sta diventando un po' troppo hot e un po' troppo a rischio. Io mi fermerei qui. Sì. Io mi fermerei qui e darei appuntamento al nostro economista, perché mi pare di capire che, correggimi se sbaglio, sì, che il miglior investimento che possono fare i nostri radioascoltatori è dare i soldi a te, dare 1000 euro a te. Esatto, diciamo, io lo dico che consiglio, se lo volete fare lo fate, se non lo volete fare lo dite. Ma sai che ti dico, Filippo? Ciruzzo, ci risentiamo a questo punto prestissimo. Beh, sì, perché sì, così avremo ancora consigli illuminanti sull'economia da parte tua, ci serve. Posso fare un appello agli ascoltatori che fanno andare i soldi? Vai. Datemi fiducia e non vi preoccupate, state in mano a me, la vostra vita futura è sicura con Ciruzzo Tozzi. Parola di Ciruzzo Tozzi. State a posto. Ciao Ciruzzo, grazie. Ciao, a presto. Al prossimo appuntamento di Fuori Economia. Niente, Ciruzzo Tozzi sbanca i social, cioè tutti impazziti, tutti per impazziti. Ciruzzo Tozzi. Beh, comunque dà anche dei consigli su come investire il proprio denaro, no? Mannaggia te, i consigli sono darlo a lui, cioè, sì, non darlo a lui oppure darlo nel mercato delle nere. Sì, io qui stenderei un velo pretoso. Stendiamolo. Comunque, noi anche oggi salutiamo tutti, siamo giunti alla fine e ci ritroviamo sempre qui domani, giusto Filippo? Sempre qui domani, raccomando, ricordate l'orario, dalle ore 10 vi aspettiamo a I Fuori Posto. Puntuali, scrivete al 349-2386666, no? WhatsApp, SMS, oppure I Fuori Posto @radio24.it, oppure sulla nostra pagina Facebook, no Filippo? Certo, I Fuori Posto, andate su Facebook, ci trovate là, ma soprattutto vi vogliamo trovare qui in radio domani mattina puntuale, altrimenti ci incazziamo. Ma no, dai, altrimenti insomma vi risintonizzate un altro giorno. Ciao.